All'interno di questo pomeriggio di Radio Città Fujiko, quindi, continuiamo gli approfondimenti di quello che succede in città e cosa accadrà anche nei prossimi giorni, perché ricordiamo, tra pochi giorni c'è una ricorrenza particolarmente importante. Parliamo del 25 aprile e abbiamo deciso di farci raccontare un po' un evento che ci sarà appena fuori Bologna, parliamo di Montesole, proprio da una delle organizzatrici di questo evento che fa parte anche della Scuola di Pace. È con noi Elena. Ciao Elena, benvenuta. Ciao, grazie per aver chiamato. Grazie a te per essere qua con noi. Insomma, come abbiamo anticipato, tu fai parte della Scuola di Pace e per l'organizzazione del 25 aprile in realtà c'è una doppia data, perché il 24 e 25 aprile a Montesole ci saranno tantissimi eventi. Ti chiederei se ti va di raccontarci un po' cosa è previsto per queste due giornate. Allora, sicuramente sì, nel senso che le due giornate sono frutto forse di una voglia che ci è rimasta enorme di incontrarci e di impegnarci, diciamo, nell'antifascismo dopo gli ultimi due anni in cui siamo stati costretti online. Quindi abbiamo deciso di approfittare sicuramente del fatto che ci fossero una domenica e un lunedì vicini per raddoppiare i nostri appuntamenti. Appuntamenti che vedono, come sempre, una varietà grandissima di possibilità per musica, attività e approfondimenti. E quindi il programma lo trovate sia sul sito della Scuola di Pace che su quello del Comitato, che su quello del Comune di Marzabotto e ovviamente sulla pagina Facebook 25 aprile Montesole percorsi antifascisti. Io sottolineo alcune cose, sottolineo che ci sarà musica sia il 24 pomeriggio che il 25 pomeriggio, sottolineo che ci saranno diverse proiezioni di documentari legati a Montesole, così come ci sarà anche la presentazione di un libro che è stato scritto ripercorrendo la storia di uno dei sopravvissuti di Montesole. E sottolineo che, come sempre, ci saranno moltissime possibilità per esperire i luoghi della strage, quindi l'area del memoriale. La prima è il 24 a partire dalle 14:30, quando accompagneremo chi ci verrà a trovare in una visita guidata all'interno appunto dell'area del memoriale, mentre poi ci sarà il classico sentiero partigiano il 25 subito al termine delle orazioni ufficiali e poi ci saranno diversi appuntamenti, in questo caso organizzati proprio dalla Scuola di Pace, che sono legati a un progetto che stiamo portando avanti ormai da 3 anni di incontro di memorie apparentemente lontane, di storie di vita apparentemente lontane, che sono quelle di chi ha vissuto il passato tragico di Montesole e di chi vive oggi la tragedia di una migrazione forzata, di un allontanamento forzato da casa. Quindi ovviamente non vi dico orari, titoli, quelli li cercherete voi, ma voglio sottolineare la usuale, mi verrebbe da dire, attenzione di Montesole, non solo per un antifascismo e per una memoria che rimane legata al passato, ma per una sua reale attivazione nel presente e nel futuro. Hai già un po' risposto in questa prima domanda. Ma io volevo chiederti, voi con la Scuola di Pace lo fate quotidianamente 365 giorni all'anno, ma a cosa serve celebrare la liberazione dal nazifascismo nel 2022? Guarda, questa domanda, devo essere sincera, mi colpisce particolarmente in questo momento, perché abbiamo da pochissime ore appreso della scomparsa di una superstite del cimitero di Casaglia, Cornelia Paselli. Aveva 96 anni, era una nostra grandissima amica e fino all'ultimo momento in cui l'abbiamo invitata a parlare con gruppi di cittadini e cittadine che stringevano nelle mani il libro che ha scritto insieme alla sua pronipote Alice Rocchi, che si intitola appunto Vivere nonostante tutto. Ci tengo a sottolineare che l'antifascismo e la memoria 365 giorni all'anno sono per la pace e la giustizia, sono per la diplomazia, sono per il non ricorso alle armi, sono per un modo di stare insieme che riconosca l'essere umano che abbiamo davanti a noi. Cornelia ci ha sempre detto: io non sopporto nemmeno quando le persone litigano giocando. E ai bambini ripeteva sempre: vi prego, parlate. Ecco, io credo che l'antifascismo e la memoria 365 giorni all'anno serva a questo. Vi prego, parlatevi. Vi prego, riconoscetevi come esseri umani. Tra l'altro, anche storicamente parlando, in questi giorni stanno accadendo delle cose per cui il dialogo sarebbe fondamentale anche per risolvere sicuramente il conflitto che purtroppo sta continuando, che insomma, nonostante siano passati oltre 50 giorni, continua a non vedere una soluzione. Insomma, io ti chiederei anche, appunto, abbiamo detto che lo fate 365 giorni all'anno, ma con la Scuola di Pace, oltre al 25 aprile, quali sono le attività che sono disponibili per chi vuole seguirvi o per chi vuole prendere parte appunto a quello che organizzate? Allora, normalmente lavoriamo moltissimo ovviamente nelle stagioni primaverili e autunnali, sia con gruppi scolastici che con gruppi auto-organizzati che ci chiamano e vengono a Montesole per trascorrere uno o due giorni appunto in un ambiente bellissimo, ma con la possibilità anche di approfondire, riflettere, incontrarsi e stare insieme con un significato, insomma. Abbiamo in cantiere, non da soli, ma con l'aiuto del Comune di Marzabotto e dell'Unione Appennino Bolognese, e speriamo con il sostegno del Comune di Bologna, un fittissimo calendario di appuntamenti per la prossima estate. E abbiamo una rassegna a partecipazione libera e gratuita che si chiama Senza Fretta, e tra poco ovviamente uscirà anche questo calendario, e lì ci sarà veramente la possibilità per tutti, adulti e bambini, di incontrare Montesole in una maniera un po' diversa, diciamo, dalla tradizionale commemorazione. Quindi assolutamente direi quasi aperti 365 giorni l'anno. Allora, noi comunque ci segniamo tutte le attività che fate, ma ricordiamo che c'è questo doppio appuntamento, non solo il 25 aprile ma anche il 24 aprile, negli spazi appunto di Montesole, con la collaborazione appunto della Scuola di Pace e delle altre realtà di Marzabotto e presenti appunto sul territorio. Io ti chiederei se ci dai anche qualche indicazione riguardo agli orari e insomma come arrivare, qualche indicazione pratica per questi due giorni. Sì, certo, hai ragione. Allora, domenica 24 cominciamo alle 11 con la presentazione appunto del libro dedicato a Franco Leoni, uno dei superstiti di Marzabotto, e andremo avanti fino a sera, mentre il 25 si inizierà a partire dalle 10 con le orazioni ufficiali che vedranno la partecipazione come diciamo invitato d'eccezione l'onorevole Roberto Fico, e come invitati di approfondimento, mi verrebbe da dire, Paolo Verizzi e Paolo Nori. Quindi credo che anche questo offra una prospettiva sull'antifascismo e sulla memoria non indifferente, insomma. E il 25 in particolare ci sarà il classico servizio navette gratuito che parte dalla stazione di Pian di Venola, quindi si potrà salire in tutta comodità. Perfetto, quindi per i più avventurosi che vogliono fare il sentiero, sì, quello chiaramente c'è la possibilità, oppure insomma c'è anche la possibilità di raggiungerlo per tutti, diciamo, no? Quindi noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata qua con noi, per averci un po' raccontato questo evento. Ricordiamo che poi ci sono tutti i riferimenti per avere maggiori informazioni, e quindi niente, davvero grazie per il lavoro che fate, e speriamo di vederci in tante e tanti il 24 e il 25 aprile, appunto. Grazie a voi, grazie a voi per il sostegno. Buona serata. Grazie mille.